Benvenuti e benvenute al secondo festival di Meltemi qui da noi. Scusami Clarissa, mi puoi suggerire il titolo del festival? Il titolo è lo stesso. Esatto, per quello che non me lo ricordo. Cronache della fine dell'impero. Adesso che il microfono doveva... Noi ci andiamo. Volevamo cambiarlo ogni anno, vero? Ma alla fine te lo ricordi, ma alla fine l'abbiamo mantenuto, perché d'altronde ai noi è un evergreen questo impero che lentamente crolla, però adesso vediamo. E niente, siamo molto contenti. Vi ringraziamo anche noi come Meltemi per questa ospitalità e questa generosità. E il libro di Martina è un ottimo inizio, perché affronta in uno stesso libro i temi che noi affrontiamo in tutto il festival. Esatto, e vi lascio. Grazie Clarissa. Grazie per temi. Allora, alcune cose così per avere la vostra benevolenza. Zam è un centro sociale, magari tendenzialmente tutti quanti qua in sala sanno cos'è, io lo dico soltanto a favore di radio e di registrazione. Quindi abbiamo il bruttissimo vizio di voler fare un sacco di cose, soprattutto di quelle che fanno casino in città, per cui in questi giorni ci sono cortei, arriva il 25 aprile, cioè il 1 maggio, il 17 maggio i neonazisti hanno lanciato un convegno a Milano, dice, insomma... abbiamo da fare, quindi magari ogni tanto vedrete qualcosa che non è proprio a posto giù, c'è un po' di disordine, un po' di casino in giro, è perché siamo pieni di roba da fare, quindi siamo un po', ogni tanto ci scivoliamo sui dettagli, abbiate la gentilezza di non arrabbiarvi con noi per questo. Dopodiché niente, possiamo tranquillamente iniziare, come diceva Clarissa, col libro di Martina. Non ti presento, ti presenterai da sola se avrai voglia, se no ti presenti adesso come vuoi, sempre a favore di registrazione, così la gente si ricorda cosa sei. Prego, presentati Martina. Devo fare qua? Vai, okay, un po' più lì. Molto inquietante, è molto accademica questa cosa, non me l'aspettavo. Tutto il centro sociale poi va a finire che ci abbiamo... Poi si chiama Paperella. Sempre di fare roba a livello professionale, ma come vedi ci riesce. Potevi lasciarlo lì. Comunque, ciao a tutti, io mi chiamo Martina Miciche, sono una fotoreporter, una scrittrice e una gran chiacchierona, quindi cercherò di essere un po' stringata oggi, se no vi faccio passare la voglia di vive, che anche no, dai. Va bene, allora, per parlare del libro, allora, prima notizia sconvolgente, io non sapevo se dirtelo o meno, ma adesso te lo dico, ho fatto una cosa veramente bruttissima, orribile, orrenda, cioè, è decaduto pure il libro nel frattempo, ho chiesto a ChatGPT di raccontarmi il tuo libro. Voglio sapere cosa ti ha detto, è bellissimo. Con molta puntualità mi ha riportato un sacco di cose che non mi ricordo, però era molto serio, essenzialmente la coincidenza tra, ovviamente... patriarcato, capitalismo e l'importanza del femminismo e dell'antispecismo all'interno di una lotta che possa affrontare tutto ciò che è l'impianto che governa e regolamenta le nostre vite. Io personalmente la cosa che avevo pensato subito dal libro, a partire dal titolo, io credo che sia ovviamente un riferimento a Fischer, quindi realismo capitalista, che la teoria poi in realtà, almeno perlomeno per quello che non ho capito io, è il fatto che il capitalismo è arrivato a un punto tale per cui non si può immaginare un mondo diverso. Devi vivere qui dentro, e qui dentro sai che poi è l'evoluzione della fine della storia di Fukuyama, per cui essenzialmente il mondo così è, così com'è, ce lo dobbiamo pescare. A questo punto la domanda è: anche il patriarcato impone il suo realismo, per cui questo è, questo c'è, non si può fare nient'altro? Punto. Da qui la poi risposta è sì. Perfetto, possiamo andare. Grazie. No, cercherò di fare la persona seria, dai, ci provo. Allora, in realtà sì, perché funzionano praticamente allo stesso modo, con una storia e una strutturazione differente, anche perché sono nati in momenti diversi. Purtroppo il patriarcato c'è anche da molto prima, ma si è legato molto bene al capitalismo, perché è un sistema che genera concentrazione di potere, non è che congeniale, è un sistema che si erge sulla concentrazione di potere. Quindi è un po' nato tutto in realtà leggendo proprio Realismo Capitalista di Fischer, perché stavo leggendo quel libro dicendo oddio è bellissimo, e arrivava anche dei punti in cui si apriva verso una visione intersezionale, poi dopo vuoi per una questione temporale, vuoi per una questione anche di probabilmente della posizione situata della persona che l'ha scritto, magari si fermava un po' prima, ho detto boh, vediamo se riesco a metterci qualcos'altro e a renderlo come concetto un po' più aperto verso tutte le oppressioni che attraversano il sistema, perché poi non è solamente una questione di patriarcato, di capitalismo, ma riguarda anche tutti gli altri sistemi oppressivi, perché se ci pensiamo ogni volta che facciamo anche un minimo di reticenza o di resistenza rispetto a qualcosa che troviamo essere profondamente ingiusto, iniquo, ci viene detto che si è sempre fatto così, che va bene così, che le cose vanno in questo modo, che c'è un motivo, e che cazzo ne sei tu che sei una ragazzina, cosa vuoi dire, cosa vuoi pensare, cosa vuoi rimostrare, stati zitta. Non c'è niente di biografico in questa cosa, no, che hai detto, no, no, assolutamente. No, no. Forse potrei provare a contare le volte che mi hanno detto di stare zitta, sappiamo tutte che perderemmo facilmente il conto, però insomma il problema è proprio quello, che riguarda qualsiasi cosa che noi riteniamo essere ingiusta, che ci riguardi direttamente o meno. Ci viene detto che in realtà è così, è giusto così, ce lo dobbiamo fare andare bene, e anzi il fatto che lo mettiamo in discussione crea questa bellissima fallacia argomentativa, questo errore logico per cui automaticamente diventiamo noi il problema. Facciamo presente che c'è qualcosa che non funziona e quindi siamo diventati noi la parte aggressiva, la parte fastidiosa, la parte problematica, quando in realtà la nostra probabilmente è una risposta a una serie lunghissima di aggressioni, microaggressioni o anche di ingiustizie. E quindi niente, ho preso l'idea di Fisher, l'ho messa dentro un contesto oppressivo un po' più grande, senza togliere nulla poi dopo, perché secondo me il suo libro, cioè, è già completo di suo, non è che bisognasse aggiungere nulla o altro. E poi mi sono concentrata molto sul realismo patriarcale, perché poi mi sta sul cazzo il patriarcato, cioè non è che ci dobbiamo girare tanto intorno, è un po' quello, no? Ma invece la connessione con quello che è il femminismo e l'antispecismo, cioè nello specifico per te, perché poi è un tema che ultimamente, perlomeno da quando io un po' ci faccio attenzione, quindi sicuramente anche da prima, emerge, è tutto questo fatto di dire, tramite il concetto di intersezionalità, l'antispecismo è anticapitalismo, il femminismo è anticapitalismo, per te come queste cose sono collegate e perché? Quanto tempo avete? 7-8 ore. Va bene, dai. Elio Catania capirà, prende l'aereo domani per andare in Palestina, perché finché ha tempo da aspettare finché non andare in aeroporto. Allora, perché sono collegate? Per il semplice fatto che io personalmente, per deformazione professionale, essendo una scienziata politica, difficilmente penso che si possa vivere in un sistema equo fin tanto che qualsiasi forma di dominio rimane in essere, perché finché rimane in funzione una struttura che crea disuguaglianza, che crea oppressione, che crea gerarchia, automaticamente non cambia il meccanismo sociale con cui ci rapportiamo anche più banalmente le un con le altre. Quindi proprio a livello, se vogliamo, relazionale, culturale, è un problema sostanziale portare avanti magari delle lotte un po' più compartimentalizzate, che poi non mettono in discussione ad esempio il nostro sistema economico estremamente problematico. Ad esempio, quella parte di femminismo che si definisce femminismo liberale è un po' un non femminismo, perché ottenere alcuni diritti sulle spalle di altre compagne, di altre sorelle che si trovano a vivere quello sgravo di responsabilità di cura perché qualcuna possa avere, non lo so, la serata libera, possa godere di cose che dovrebbero essere alla nostra portata normalmente, non è una liberazione, è una concessione del potere, un dirittino rosicato, mentre la libertà di qualcun altro viene ristretta. E questo riguarda un po' tutte le forme oppressive. Tornando al discorso specista, noi siamo abituati proprio a non metterlo nemmeno vagamente in discussione, il sistema specista, cioè gli animali sono lì perché noi li dobbiamo usare, ce l'hanno detto nella Bibbia che c'era Adamo, il principe di sto cazzo del paradiso terrestre, e poi gli altri animali che stavano lì a fare un po' contorno quello che era, e se li mangiamo, ci li indossiamo, li uccidiamo per sport, li uccidiamo per divertimento, li uccidiamo per intrattenimento, li torturiamo per intrattenimento, perché poi che figata andare al circo a vedere un animale quadrupede che magicamente starà su due zampe quando un tizio gli fa così. C'è una tortura dietro spaventosa, lunga e protratta, e c'è anche un continuo condizionamento che deriva tendenzialmente dal ricatto alimentare, quindi o performi nella maniera in cui ti viene detto oppure te non mangi, oppure c'è la morte nel momento in cui l'animale non dà più quella performance che gli viene chiesta, quindi in un momento in cui dovesse eventualmente ribellarsi, magari anche mordendo, perché gli animali mordono e questa cosa la facciamo anche noi in quanto animali umani, a quel punto automaticamente sono loro il problema, con gli animali non umani arriva la rimozione, che è l'uccisione. E noi questa roba non la mettiamo in discussione, lo diamo per scontato, pensiamo che sia giusto, pensiamo che sia un nostro diritto, e siamo educati a credere che sia un nostro diritto. Pensiamo al consumo di carne. La carne storicamente è sempre stata il cibo dei padroni, della ricchezza, della nobiltà, dell'aristocrazia, è il cibo delle feste, è il cibo del momento in cui bisognava dimostrare opulenza. Cioè, se si pensa, adesso io di arte non so nulla, quel poco che so è che se penso ai quadri dove vengono rappresentati questi grandi banchetti dove si vedono animali in primo piano uccisi, che sono messi in forma di cibo, tendenzialmente rappresentano sempre dei momenti conviviali, dei momenti importanti, che ne so, matrimoni, feste, banchetti, robe di questo tipo. C'è un motivo, perché richiedono il consumo di un corpo altro, che è un atto estremamente potente, cioè digerire un corpo di qualcun altro e farlo parte di noi è un atto estremamente dominante, è un atto assoluto, perché significa decidere che quella soggettività non è più, perché noi ne stiamo facendo consumo. È un consumo che tendenzialmente veniva ostentato dalle classi più ricche, poi dagli anni 50, la produzione in massa e quant'altro, magicamente è diventata la panacea del popolo. Tutti possono mangiare carne, quindi tutti stanno benissimo nel capitalismo. E anche no, primo, ma soprattutto tutti chi? Perché gli animali non umani non ci stanno così tanto bene. Sono, in questo preciso momento ce ne sono tantissimi che stanno viaggiando fuori da in direzione dei macelli, degli allevamenti per essere uccisi. Se volete faccio pausa, non è un problema. Ma no, figuratevi. Sono migliaia gli animali che stanno venendo spostati, sono migliaia quelli che in questo momento stanno venendo uccisi al coltello, con la pistola cattiva. Sono migliaia quelli che stanno nascendo, quelli che vengono allevati. Ci sono interi capannoni che probabilmente in questo momento stanno venendo svuotati, capannoni che sono in fase di quarantena perché magari sono stati svuotati qualche giorno fa dal numero di animali che era presente, quindi devono essere puliti e poi riempiti nuovamente, soprattutto per quanto riguarda la produzione di broiler. Comunque questo è tutto un sistema che sta in piedi e che noi pensiamo vada bene così, perché tanto sono animali non umani e chi se ne frega, no? È questo che crediamo. Poi quando arriva qualcuno che dice bah, forse facciamolo questo passettino in avanti o di lato, decentriamoci un attimo da questo posizionamento antropocentrico e vediamo un attimino quello che stiamo facendo fuori, quello che facciamo agli altri, che consideriamo sempre così altri al punto da non vederli più e cancelliamo il processo che ci sta dietro. Non lo facciamo perché ci viene detto che è la tradizione, che la carbonara va fatta con le guance di un maiale, perché poi è bellissimo che li chiamiamo guanciale, lonza, no, quelli sono pezzi di muscolo e pezzi di faccia che ci mangiamo, non sono cose così neutre quando poi le chiamiamo con il loro nome. Quando cominciamo a essere messi di fronte all'evidenza, cominciamo a chiamare effettivamente le cose per quello che sono e magari a ricondurle ad un corpo, a una soggettività, a una moltitudine di soggettività, allora lì diventa un po' più difficile fregarsene, perché a quel punto siamo anche messi di fronte al fatto che noi attivamente prendiamo parte a un'oppressione. Per farlo dobbiamo sradicare una forma realista e anche una forma di devozione, se vogliamo, al capitalismo, che è un po' l'illusione di avere questo privilegio di poter consumare altri corpi, che siano umani e non umani, perché poi, volendo tornare al discorso relativo, se vogliamo, al mondo degli animali umani, a me spiace molto fare questa separazione che è molto cartesiana. Io una cosa che probabilmente ripeto fino alla noia è che odio Cartesio ed era proprio un pezzo di merda e ci tengo a dire questa cosa. Anche alcune compagnie dalle parti delle sberle che sono molto d'accordo con queste cose, con questa posizione. Nel senso, questa mentalità binaria occidentale è veramente tragica, inquietante e ci ha regalato solamente morte e distruzione anche su noi stesse. Però se dobbiamo ritornare un attimo all'analisi del mondo umano, le nostre vite si basano sullo sfruttamento di altre persone, si basano sullo sfruttamento tendenzialmente anche di persone che poi magari nemmeno immaginiamo, ma sono le stesse che in teoria il femminismo rappresenta. Sono quelle donne che devono lavorare nelle fabbriche in Bangladesh per fare i vestiti di H&M, che magari non possono nemmeno tornare a casa la sera perché è troppo lunga la tratta e non ci sono i mezzi per raggiungere casa e quindi vivono in queste fabbriche. Come pure le persone che sono dentro l'industria della concia, che magari sono esposte all'uso di, oltre vabbè, a tutta la parte di scoiattura che è terribile da un lato e dall'altro, perché nel senso essere un animale non umano che è destinato alla scoiattura è agghiacciante tanto quanto essere un animale non umano che è destinato al macello alimentare. Pensate anche a quelle persone che devono svolgere queste attività in luoghi in cui è più facile evitare una legislatura stretta sull'uso dei componenti chimici, piuttosto che sull'uso anche delle procedure di uccisione, che quindi rendono questi lavori ancora più pericolosi fisicamente, mentalmente, psicologicamente ed emotivamente. Portare avanti una lotta transfemminista che non prende in considerazione il superamento del sistema capitalista, che è un modo gentile per parlare della distruzione del sistema capitalista, perché anche due schiaffi glieli possiamo dare, perché non è che dobbiamo essere gentili nella lotta, perché sennò gli stiamo sempre a fare i favori. Penso che non sia molto coerente con l'idea stessa del transfemminismo, perché significa farlo un po' quel tanto che ci fa comodo. Ma una cosa che ti volevo chiedere, a parte il fatto che questa è venuta in mente una notizia un po' strana, così, che era venuta circolata nei giorni scorsi, perché a noi piace molto parlare di Milano Sud, era venuto fuori che c'era un lupo che pascolava libero a Milano Sud, veramente? Proprio in piazza Labbiate Grasse, sì. C'è il video del lupo che passa dalla fermata del tram. È una cosa bellissima, spero che nessuno tocchi quel lupo. Ma è sparito, non si è saputo niente. Ok. Chi lo sa? Non se ne parla più. Non lo so. Cioè, bellissima fuori. Relativamente parlando, vuol dire che sei entrato in questa città terribile, poraccio, c'ha un ambiente da fuori arriva, che è agghiacciante. Cioè, da dove arriva? Non so, è la fame che deve dagli avere. Appennini fino a qua ce n'è di strada. L'unica cosa mi viene in mente con dei lupi, però. Al Ticino ci sono lupi. Minchia. Wildlife al piano. Ha fatto una gita per il salone anche lui. Esatto, probabilmente. È venuto per fare il salone. Se voleva mangiarsi qualche coreano. In guarda, gita. Volesse mangiare qualche organizzatore del salone, chi siamo noi per dirgli di no? Cioè. Bellissimo, bellissimo. Non so. Questa cosa per cui Martina passa dal ovviamente giustamente parlare dello sfruttamento dei corpi degli altri a dare morti sbranati è favoloso. Vabbè, ma quelli sono scavare delle fosse comunque. Se non volete sapere, sa scavare le fosse. Lo so fare veramente, non è una battuta. L'ha fatto. No, allora, la cosa che mi ha colpito molto mentre parlavi era il concetto di vivere con la presunzione di potersi poter pretendere che sia naturale assorbire il corpo degli altri, che è proprio, cioè il senso di proprio consumarlo. Cioè io non ho presente quando per lavoro consumiamo il materiale in cantiere che sparisce, è la cosa che un po' comunque mi piace, è che tu vedi che le cose vengono prese, lavorate da dove erano, non ci sono più e vanno a finire in un altro posto. La mia mente baccata da autistico che mi piace molto questa cosa, si diverte. Questa cosa per cui dei corpi si dissolvono per poterci garantire la sopravvivenza obiettivamente è un po' strana, soprattutto nel momento in cui alcuni vocaboli che sono relativi al mangiare, penso all'appetito, ai morsi, non so, adesso mi vengono soprattutto queste due parole, sono anche un po' riferibili molto spesso all'ambito della sessualità, quindi l'appetito sessuale, i morsi come modo di nell'intimità di rapportarsi, che forse hanno anche un po' quello stesso tipo proprio di concetto alla base, divorarsi, mangiarsi, avere quel tipo di atteggiamento, e per cui cioè, per te il collegamento tra il consumo di carne, giudicare la donna come una preda, tornano sempre i stessi vocaboli, e come si mettono in comunicazione il fatto del femminismo e dell'antispecismo per te? Guarda, una domanda, in realtà c'è parecchio, così, no? Però ho visto passare la gatta. C'è qualcosa che si sta muovendo alle nostre spalle. Questa cosa sta venendo registrata. Sto prendendo le misure, tra un po' salta. No, vabbè, lo terrò in mano. Fai quello che vuoi, ti prego. Cioè, veramente, lo so, questa registrazione non avrà alcun senso, ma credetemi, c'è una gatta bellissima. Ciao. Allora, in realtà, questo tra l'altro è un tema che è stato già ampiamente affrontato da Carol J. Adams, che ha scritto questo libro che si chiama Carne da macello, che spiega proprio la relazione tra femminismo e antispecismo, e fa vedere quanto alla fine i corpi delle persone femminilizzate, socializzate come donne, siano sempre ricondotte a un certo grado di animalità proprio per essere sessualizzati. Innanzitutto vi basti pensare al processo con cui noi veniamo fatte a pezzi quando andiamo in giro. Improvvisamente, quando esci in strada, non sei più una persona con uno spazio inviolabile. Diventi un pezzo di figa, un bel culo, un dove vai bella, un paio di tette. Diventi quello che le persone da fuori si prendono da te, fatto metaforicamente a pezzi e purtroppo a volte anche fisicamente a pezzi. E ci viene anche chiesto di operare una dissociazione da noi stesse, perché dobbiamo accettare questa violenza costante, queste molestie costanti, dobbiamo accettare che ci arrivino delle mani addosso, non dobbiamo rompere le scatole, perché è quasi come se noi non avessimo libertà del nostro corpo, perché la proprietà è stata data a qualcun altro. E uso il maschile non a caso, perché mi riferisco alla maschilità egemone. Un maschile che ha la possibilità di farci a pezzi, di decidere come chiamare le parti del nostro corpo e quando, e poi di consumarle. Di consumarle senza il nostro consenso, perché noi siamo educate a non avere la possibilità di accedere al consenso, come pure la controparte, visto che viviamo in un mondo purtroppo binario, di nuovo cartesio, vaffanculo e compagnia, tutti i coloni bastardi che hanno pensato di portare avanti i binarismi distruggendo, almeno provando a distruggere, modelli espressivi diversi che invece resistono e ci sono e ci insegnano per fortuna che abbiamo tante modalità di esprimerci, perché siamo tante diverse. Comunque alla controparte viene insegnato che non deve chiedere mai, che può avere tutto quello che vuole, che se vuoi dire alla ragazzina dell'asilo che ti piace, le devi tirare i capelli, non glielo devi dire, non puoi piangere, non puoi avere un'espressione emotiva, perché l'espressione emotiva prevede una condivisione, la condivisione prevede anche il rifiuto, il dover confrontare, avere un confronto con questo rifiuto, che è una cosa che ai bambini viene costantemente negata. Ma senza voler entrare proprio nelle dinamiche tra i bambini e la genderizzazione coatta che viene fatta loro, quante volte ai bambini si dice vai a dare un bacio allo zio anche se non vogliono, alla zia? Quante volte magari loro sono fisicamente a disagio, non lo vogliono fare perché c'hanno altro per la testa, perché non gliene frega niente, e gli viene detto lo devi fare lo stesso. In quel momento gli si insegna che il loro consenso è subordinato alla persona più potente che c'è in quella stanza. E questa cosa la reitereranno tutta la vita, con la differenza che se si troveranno in una posizione di potere, saranno loro a violare il consenso di qualcun altro, a negarlo, a non riconoscerlo. ovviamente queste cose sono quasi immediate, basilari quando dette così, ma quando poi dopo le viviamo ogni giorno non ci pensiamo. Carol G. Adams in questo senso ha usato la figura retorica del referente assente, che è proprio la rimozione del soggetto e la trasformazione del referente in un'altra parola, che era quello che vi dicevo prima, che ci allontana dalla percezione del soggetto. È il motivo per cui noi diciamo carne e non carcasse o cadaveri, è il motivo per cui non diciamo ah, ti stai mangiando un pezzo di muscolo, oppure non vediamo, quando vediamo una persona che magari mangia formaggio, beve latte, noi diciamo scusa, ma tu ti alimenti con le secrezioni mammarie di un altro mammifero? Io faccio una cosa molto cringe a volte, dico alle persone provate a immaginare se il rapporto fosse inverso, se fossero gli altri mammiferi a nutrirsi delle nostre secrezioni mammarie, cioè ci farebbe anche abbastanza schifo come idea, pensando anche a tutto il processo che sta dietro alla lattazione, che è la gestazione, che viene sempre rimossa. Quindi in realtà il legame è fortissimo, soprattutto per quanto riguarda il consumo. Poi noi siamo delle soggettività particolari, nel senso che molte delle relazioni umane si basano sul consumo. C'è anche un consumo che può non essere il consumo consumista, che può essere il consumo di tempo, il vivere il tempo. Il problema è che siamo abituati proprio a incanalare la nostra idea del trascorrere piuttosto che dell'esperire qualcosa all'interno di un processo di assimilazione che automaticamente prevede una presa, una conquista di qualcosa. Infatti non è solamente un legame con alcune espressioni sessualizzate, ma anche con alcune espressioni belliche. La donna si conquista, per la donna si lotta, la donna va contesa. Cioè, queste sono tutte cose afferenti a un linguaggio che prevede la violenza, magari la violenza tra più soggettività che si devono scannare per che cosa, per una decisione da cui la persona in questione è totalmente stromessa, perché sono sti due coglioni che si prendono a cazzotti perché deve uscire con te, tu sei lì, ma io mi stavo anche a fare i fatti miei, cioè ero a posto uguale. Ma all'interno del libro parli di come il sistema ci educa le diseguaglianze, è un percorso educativo, quindi da quando si è bambini e si cresce, o come dicevi adesso, tanti piccoli momenti dove ti viene insegnato qualcosa. All'interno di un libro che abbiamo presentato qua a ZAM, che è l'antimaschio, penso che sia il titolo, l'ho presentato io, questo dice tanto di come sto messo col cervello, dico a un certo punto una cosa molto interessante che riguarda, sono perso, il patriarcato ci educa già dalla famiglia a rispettare il dirigente d'azienda, ad essere anzi una funzione produttiva che deve avere potere ed essere sempre capace di produrre. Se non produce, un maschio è disfunzionale, inutile, da gettare via. E quindi in quel senso, secondo gli autori del libro, che poi è una raccolta di contenuti, nei movimenti in America, in Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra, in Germania, in Italia, gli autori, chi ha raccolto le testimonianze, fa notare appunto come per loro era il patriarcato che esisteva prima e che ha poi generato le basi per il capitalismo. È così anche per te? E allora a questo punto è comunque fondamentale partire da una lotta femminista, perché l'origine del capitalismo a ricercare nelle strutture della famiglia, del comportamento, dell'educazione, o meno? Cioè vorrei riportare un attimino la discussione, perché è molto spesso accesa, io trovo che sia anche molto interessante che sia una discussione accesa tra l'anticapitalismo, ce lo siamo un po' dimenticati ultimamente, o meglio abbiamo dimenticato le lotte sul lavoro, che molto spesso erano il cuore dell'anticapitalismo, però c'è tipo anche l'occupazione delle case è anticapitalismo, anche la lotta per ottenere il potere nella governance del proprio territorio è anticapitalismo, sì, è lotta di classe per la precisione. Per partecipare molto di più, per dare molto più spazio a lotte come anche un po' con l'antispecismo, che non è tanto patrimonio del movimento italiano, comunque mi pare di capire, tra spazi occupati, collettivi, movimenti, non è che proprio l'antispecismo se ne parla spesso, molto di più tutto ciò che è femminismo, antisessismo, lotta al patriarcato. Secondo te cosa viene prima? Come al solito, la solita domanda inutile, l'uovo o la gallina, il patriarcato e il capitalismo, e soprattutto se si può recuperare un po' di lotta al capitalismo in qualche maniera. Vabbè, la domanda è un po' confusa. Iniziamo qua, poi ne facciamo altre. Secondo me era più lineare di quanto pensi. Wow. Cioè, non ti buttare giù. Era molto chiara. Mi sono capito io mentre la facevo, quindi. Allora, io ho capito, voi l'avete capito. Sì, si capiva. Allora, se dobbiamo buttarla proprio da un punto di vista storico, è nato prima il patriarcato, ma proprio perché ha avuto un'evoluzione diversa. Il capitalismo, poi anche lì bisogna vedere poi dallo storico che lo racconta, perché ci sono alcuni storici che parlano di precapitalismo, che parlano di capitalismo ante litteram. Il problema del capitalismo è che è la costruzione economico, sociale e culturale, perché poi anche secondo me è fondamentale riportare il capitalismo nelle nostre lotte, perché poi si crede che il capitalismo sia solo una cosa economica, come se l'economia non producesse cultura, non fosse cultura e non contaminasse la cultura e non dominasse la cultura. È anche un sistema culturale che si è prodotto proprio sfruttando questi meccanismi di potere. Se pensiamo anche alle società che c'erano prima delle enclosures, comunque c'erano delle forme di verticalizzazione sociale, di asservimento di certe classi sociali che venivano via via ridotte sempre di più a forza lavoro, ma era proprio forza sfruttamento. Poi anche adesso secondo me bisognerebbe parlare tanto di forza sfruttamento, perché devo dire che mi piacerebbe incontrare una persona che è equamente retribuita per il lavoro che svolge, e con equamente retribuita mi piacerebbe pensare a una persona che è retribuita abbastanza da non dover lavorare ogni ora di ogni cazzo di giorno della sua vita finché non arriva, vabbè, la pensione ormai è un discorso talmente anacronistico, a morte essenzialmente, che a un certo punto è quella, è come se la barra fosse la nostra salvezza, però questa cosa poi prendetela molto alla leggera quando la dico, per favore. Comunque, saltino nella positività, via, ogni tanto una deviata di positività ci sta. È una settimana molto difficile. No, al salone di... del mobile, intendi? Merda, sì, no, guarda. Sono settimane tragiche, il salone del mobile è il chiodo nella bara. Adesso la smetto con queste battute trashiste. Scusate. Sarai la prossima testimonio della Taffo, probabilmente. Magari loro potrebbero pagarmi seriamente, se una volta sì. Tanto. Forse sì. No, non lo so se tecnicamente per deontologia professionale non posso nemmeno farlo, cioè pensa che sfigata, vabbè, al di là di questo. E, che stavo a dire? Stavo a dire una serie di cose. No, semplicemente che in realtà il capitalismo non era inevitabile che venisse fuori, però c'erano già tutte le direzioni perché si andasse in questa deriva tragica che adesso sta dando dei frutti veramente quasi esilaranti da guardare, perché a un certo punto diventano talmente tragici che... non lo so, è assurdo quando si vede uno come Donald Trump, cioè una certa, dici chi li poteva immaginare sti dazi che vanno oltre il 100%, dove cazzo li è uscita? Vabbè, lasciamo stare che poi probabilmente l'istituto dell'impeachment è sempre molto sottovalutato. Comunque, al di là di questo, io non penso che si possano fare lotte sciste, non penso che una lotta transfemminista possa prescindere, grazie mille per aver avuto pietà di me, per chi non lo sapesse mi hanno appena spostato l'oggetto che doveva tenere il microfono perché gli stavo dando un sacco di botte. Scusa, ok, sono sbagliato, errore mio, perdono. Non dovevo mettere, è colpa mia. No, che non so stare nello spazio, sono una disagiata, però nel senso, non può esserci una lotta transfemminista senza anticapitalismo, perché se no ritorniamo al discorso di prima: per chi stiamo lottando? Per la parte di noi che ha voce in capitolo in un sistema capitalista? Lottiamo per il minimo percentile del mondo, lottiamo per una serie di persone che sono già privilegiate, cioè banalmente persone che hanno la cittadinanza, che possono avere un vago potere contrattuale, persone che possono inserirsi in una contrattazione lavorativa, se vogliamo. Già stiamo escludendo una parte di popolazione che viene ancora più marginalizzata, e se la marginalizziamo all'interno delle lotte abbiamo fallito in partenza. Viceversa, non ci può essere un anticapitalismo non transfemminista, perché se no ci ritroviamo di nuovo con un ordine patriarcale che magari sia anticapitalista, però cioè, io l'oppressione dei compagni non la voglio vivere, grazie ma no grazie. Cioè, o le portiamo avanti con la difficoltà di portarle avanti mettendoci in mutuo ascolto e mutuo anche supporto le une delle altre, se no secondo me alla fine andiamo a reiterare sempre, magari cambiamo un po' il sistema, facciamo che domani spegniamo il capitalismo, ma se non spegniamo anche il patriarcato, noi che fine facciamo? I nostri corpi che fine fanno? Se non spegniamo l'antispecismo, cioè scusatemi, lo specismo, le altre compagne dove sono? E questo poi si lega alla lotta decoloniale, si lega a tutte le lotte che attraversano il nostro sistema. O siamo tutte o non è una rivoluzione, perché, cioè, nel senso, la rivoluzione francese ce l'ha insegnato, ma di questo ne parla Piketty molto meglio di me. È stata una rivoluzione che ha avvantaggiato molti padroni. Va a finire così. Cosa tra rivoluzioni borghesi, rivoluzione americana, rivoluzione francese. Rimane scioccato dopo il liceo che pensa che la rivoluzione francese sia non plus ultra della lotta dei poveri, eccetera. Per realtà. Però vedi semplicemente... come ci scolarizzano anche a pensare che quello è il massimo a cui puoi ambire, anzi, è una figata. Vabbè, poi, cioè... poi quando vai avanti a studiare, quindi sei ancora dentro il sistema educativo, ti spiegano che così semplicemente si è passati da avere. Chi ti controllava aveva il diritto di vita e di morte su di te, quindi serva la gleba del territorio, eccetera, ti insegna. No, la rivoluzione francese si è conquistato il diritto di essere pagati per le proprie ore di lavoro. Wow! E siamo ancora così, esatto, anzi un po' così. Meno, lo dico da persona che non... Vabbè, questo è un fun fact sulla mia vita, io sto ancora aspettando pagamenti da dicembre, così. E quest'anno lo sto facendo a vela sulla speranza, se potremmo alimentare speranza. Il fatto che mi fa molto ridere questa cosa che hai detto, perché mi fa piangere dentro, in verità, è aveva il diritto di vita e di morte sulle persone che sfruttava, per la maggior parte delle persone che magari vivono in corpi femminilizzati o che comunque sono considerate non conformi rispetto al genere, questa è tipo la nostra vita oggi, perché c'è gente che ha diritto di vita e di morte su di noi, salvo casi particolarmente mediatizzati, vengono anche difesi in questo. Cioè, se pensiamo a molti mariti, io, vabbè, non entrerò nel merito di storie che ho visto e esperito. Io vengo da un quartiere popolare dove si sanno più cose che in altri quartieri, perché è normale, perché è così, perché ci conosciamo di più, abbiamo una condivisione dello spazio diversa, chiunque viene da un quartiere popolare lo sa. Noi sappiamo quello che succede nelle case degli altri. Anche perché lo senti, perché... I muri sono sottili. Esatto. Sì, poi non è che si impegnano a far bassa voce, oppure proprio convinti di quello che fanno, e vediamo anche poi dopo come si armonizza quello che c'è intorno a loro. Gli uomini che nel momento in cui questa cosa diventa intollerabile ai loro occhi, quindi mai contemplando la persona che è direttamente coinvolta, vanno a minacciare il tipo: guarda che se lo fai di nuovo noi te meniamo. Poi magari questo lo fa in un modo che non è più percepito, lo fa solo a livello psicologico, a livello emotivo, a livello economico, la persona muore lentamente in quella casa perché viene svuotata di chi era. E io ho visto delle donne sparire, cioè diventare veramente gli spettri di se stesse, probabilmente anche per conservare quel minimo percentile di quello che potevano proteggere da quella mostruosità, da quella violenza che avevano in casa, svanire e comunque venire lasciate a se stesse. Perché? Perché ci avevano pensato gli uomini, perché sono loro a decidere le condizioni in cui noi dobbiamo vivere. Sto zitto perché forse è meglio. No, vero. Purtroppo da prenderla per quello che è. Io a questo punto volevo chiederti altre cose che riguardavano il libro, cioè è un libro che è venuto fuori da tuoi studi successivi. Eravamo rimasti alla presentazione, credo dell'anno scorso, di Femminismo di periferia, in cui tra l'altro mi hai ricordato adesso parlando di come forse c'era un capitolo che parlava dei maschi quando andavano nei quartieri popolari. Molto spesso capita che l'uomo è agli arresti domiciliari e quindi perde un po' la sua funzione o mette in crisi la sua relazione con l'esterno, con la possibilità che ha di mantenere la famiglia, o quando è in carcere c'è la donna da sola che deve provvedere ai figli, come i figli vedono i genitori o il padre in carcere, tutta quella parte lì. Quindi quella mi sembrava, era proprio nata da una certitudine anche di lavoro tuo sul territorio, che avevi sviluppato anche in parte insieme alle compagnie dello spazio mutuo soccorso di Piazza di Stuparic. Questo libro invece parte proprio dallo studio, dal tuo diventare ufficialmente, no, mi spiace molto, lo prendi, no, intellettuale di sinistra, no. Sì, no. Essere intellettuale di sinistra, approfondire dei temi e volerci parlare sopra. Come è funzionata la nascita di questo libro, dillo. E cosa ci... Allora, sta facendo del male, spiace. No, vabbè, scherzo. Se vuoi ridere, in realtà questo libro l'avevo scritto prima dell'altro, che ha una storia molto buffa alle spalle, se volete ve la racconto, così mi becco una querela. Spero di no, però... Avete sentito senso... tutti, amici della postale, per cortesia. Querelatemi, siete collegati. Non querelatemi, perché non si fa una bella figura. Non farò nomi, ovviamente. Inizialmente io avevo pensato questo libro, avevo iniziato a scriverlo, avevo trovato una persona che ha lavorato con me, che poi è anche menzionata nei ringraziamenti, quella che ci ha fatto il primo editing, che mi aveva detto: guarda, lo porto nella casa editrice con cui sto collaborando, bla bla bla, vediamo se interessa. Entriamo nel magico mondo dell'editoria, non esiste il contratto, non esiste l'affidabilità. Io insisto, perché dico: boh, frate, cioè devo lavorare 6 mesi sulla base del cazzo di nulla, abbi pietà, ma anche no. Cioè, e non sei ancora diventata capace di mangiare la sabbia. Cioè, veramente. Questo è il problema. Forse c'è quello è il talento inutile che mi diventerebbe utile, esatto. Cioè insegnarmi a mangiare la sabbia almeno risolvere i minerali dalla sabbia, fantastico. Così poi dopo non mi possono dire, visto che sono vegana, sono carente di calcio, che cazzo altro ne so, visto che ci sono sempre nutrizionisti nella stanza quando si scopre che una persona è vegana, ma di questo ne parliamo dopo, perché è sempre norma quando del corpo. Mangia, quando mangiamo? Quando mangiamo, quando respiriamo, cioè anche sta cosa, il mio corpo viene misurato costantemente da gente che non sa un cazzo, ma pensa alla tua B12, al tuo ferro, che guarda, se tanto mi dà tanto, non li hai integrati abbastanza nella vita, però va bene così. Io sì, perché prendo la B12. Questa era sottile però, questa era molto sottile. È perché quello è un calcio, ferro, a un certo veramente. Punto, porca miseria, cioè, dai. Fide, poi cazzetti nostri ogni tanto nella vita, quando si tratta dei corpi degli altri, meno controllo, meno misurazioni, che stiamo tutti meglio magari. Comunque, eravamo arrivati all'editing del primo, esatto. Il primo libro. Allora, il libro l'hai portato all'editore, che è qui in sala. Allora, inizia la faida, ok? Lasciatemi stare. No, allora inizio a lavorare con questa persona con cui mi sono trovata benissimo, lei è super sul pezzo, tra l'altro presa benissimo anche dagli argomenti, che è sempre una cosa molto piacevole. E poi scopro che in realtà in questa casa editrice i contratti si potevano fare, però Ser Capoccia voleva scopare. Bello! Che ambiente Grazie valido! Grazie a Dio, a chiunque insomma mi abbia benedetta con la mia capacità di rendermi repellente a molti uomini, è una cosa che mi fa molto piacere, mi rende molto felice. Superpotere è utile a questo Cazzo, punto. Cazzo, veramente, ogni tanto un'abilità utile c'è, perché uomini cis, statemi ben lontano, grazie. Se siete dei maschioni non vi avvicinate, grazie ma non grazie. Comunque, al di là di questo, scopro questa cosa anche un po' disturbante, e poi scopro che l'editor con cui lavoravo non era retribuita, che stava lavorando a gratis da 3 mesi e che in più, quando abbiamo fatto presente questa cosa in una call, si è beccata questo che ha cominciato a urlarle addosso, al che io l'ho guardato, guarda, ascolta, figlio mio, quietiamoci. È andato in crash perché è una persona che non è abituata a essere messa in discussione, minchia raga, questo mi querela sicuro, comunque cazzi suoi. Molto patriarcale nei modi, molto aggressivo nei suoi confronti, anche passivo-aggressivo, manipolatorio, anche perché poi c'era tutta una questione che riguardava un'altra persona che non tirerò in mezzo, perché quella è la sua storia ed è una cosa molto, molto privata e molto sensibile. E che dico, guarda, sai che c'è, ma perché vuoi pubblicare un libro sul femminismo? Facciamo che siamo a posto così, tu vai per la tua e vado per la mia, questo si offende da quello che so, ma tipo insultato in redazione, ma cazzi suoi, quindi siamo rimasti io, rimaste io e Chiara a cercare una casa editrice, poi abbiamo trovato Meltemi che invece ci ha permesso di avere un'esperienza totalmente diversa, di ascolto, di accoglienza, anche proprio di apertura a tutti i milioni di cambiamenti che ho fatto nel corso del tempo, perché poi avendo scritto un'altra cosa dopo e avendo fatto anche dei cambiamenti fortunatamente non assoluti ideologici, però comunque per fortuna si va avanti e non si torna indietro, non si resta ancorati alle proprie idee, sennò si va a finire come Cartesio. È cambiato molto. Non so perché te lo stavo raccontando. Perché ti avevo chiesto come era nato il libro, se era una questione di studio per diventare definitivamente intellettuale. Ci ho studiato. Non sono, cioè, sono cose comunque verificabili. Se vi volete incazzare per quello che ho scritto, andate a rompere il cazzo a quelli che stanno in bibliografia e non venite da me. Che per me è una cosa bellissima da dire, fa molto ridere. No, però al di là di questo, sì, ci ho studiato, ci sono anche delle cose che ho esperito. È stato molto mediato poi mettere questa parte dentro. Che cazzo vuol dire esperito? Scusate, momento le cose. Di cui ho fatto esperienza. Ho ah, ok, hai fatto bene. Non lo sapevo, no, ma devo dire, c'è solo ignoranza. Ti lo chiedo, no? Meglio fare così. Io ho un'amica che dice sempre non ti deve peretare, c'è sempre quel momento nella stanza in cui ti dicono ma che cazzo... è così, ci sta. Cioè, è anche bello se ce le spieghiamo queste cose. Comunque adesso vorrei che alzassero le mani le persone in sala che sapevano dire spirito, anzi che non lo sapevano. Chi è che non lo sapeva? Ah, solo io, certo. Cioè, è un complotto, certo. Secondo me è un complotto. No, no, ma figurati, lo sanno tutti, tutti e tutte, e tutto. No, no, per carità di Dio. E qui hai fatto esperienza di queste cose, dicevi? No, niente, che ci ho messo, spero, un po' di abilità giornalistica magari nel raccontare alcune cose, sperando di averla, chi può dirlo, raccontare alcune cose in un modo comunque che rendesse anche più tecnici forse alcuni discorsi, ed è così. Però posso non essere un intellettuale di sinistra, perché di solito sono sti baroni un po' tronfi, un po' così, cioè baronato fa cagare anche nella cultura. Scavi le fosse, Mattia. Esatto, tu scavi le fosse. E spalo merda. E spali merda. Questo è una storia vera, anche delle foto. Quantomeno dalla rivoluzione culturale in avanti sei intellettuale, se stai già facendo il tuo periodo. E allora, ovviamente come sempre c'è spazio per domande, partecipazioni eccetera, per cui se ora volete fare una domanda e salvare me, che nel frattempo cerco di farle un'altra domanda. Laura ruba il libro, complimenti, fa parte della commissione libro, questo festival è anche colpa sua, di Chiara, di Miriam e di Elena. Infatti è bellissimo che sono solo compagne, cioè l'unico compagno è presente al primo libro, vabbè, cioè questa cosa fa spettacolare. Basta, prego. Qualcuno vuole unirsi, se no non so. Penso che tu abbia spaventato una persona. Ho spaventato qualcuno? No, forse sì, forse sì, non lo so. Sarà la maglietta nera. Però c'è scritto bruciamo tutto, c'è scritto bruciamo tutto, quello di una di meno. Perché cosa? Alle magliette, no? Ci saranno, non so se le vendiamo in questo giorno del festival perché dobbiamo ristamparle 80.000. Ah, pensavo fosse una domanda. Anche io. Certo, te la regaliamo... Potremmo regalare le magliette a chi presenta i libri, magari è una bella cosa. Tipo squadre, allora, se c'hanno le pezze al culo tipo me, apprezzato, perché una maglietta comunque si usa sempre. Volentieri. Facciamo così, lascio prendere tempo alle persone in sala che poi coraggiosamente parteciperanno a questa presentazione. Qual è il cammino pedagogico con cui il patriarcato insegna alle persone come si devono comportare sia con gli animali che con le donne? Cioè, quelli sono te. Vai. proviamo a fare un po' comincia di cabaret. Comincia prima ancora che veniamo genderizzate, quando c'è qualcuno che ti dice auguri ai figli maschi. Comincia lì. Grande no, classicone. Però grande visto classicone. Che era questa cosa è stata superata, che a me è capitato di avere a che fare con diverse persone che hanno avuto bambino, anche persone socializzate che si identificano come uomini, che erano molto felici anche di farmi sapere, perché poi quando sei la persona transfemminista antispecista nella stanza c'è anche una voglia di condividere certe cose, un po' per l'approvazione, un po' per dirti dai, non sono proprio la merda che pensi che sia. Alcuni effettivamente non lo sono. No, ma io sarei felice che fosse una femmina. E tu sei là che dici, ma te non saprei mai che cazzo è tuo figlio finché non te lo dice lui. E quando dici sta cosa ti guardano per dire, da dove sei uscita? Perché? Perché? Vattene. Infatti non mi invitano mai alle feste, ai battesimi. Non fai i gender reveal party? Come mai? Mi ho partecipato a uno. Bello, interessante. C'era una torta a forma di bambino, è stato molto cringe. Tutti comunisti nella stanza? No. Comunista e comunista, no. No, purtroppo no. Infatti è stato ancora più inquietante, avrei detto dai, cioè almeno uno stereotipo, esatto, se lo fate portare a casa, non so. Comunque sì, comincia da lì, comincia alla nascita. Quando ci sono i padri e gli amici vanno dal padre a dire attento, vedrai quando sarà grande che te la rubano. Sapete quante volte ho sentito dire a mio padre attento che te la rubano? Perché magari io vabbè ero un po' una ragazzetta sgargiantella, stavo sempre a fare disagio, per usare un eufemismo, e quindi il fatto che magari fossi una che parlava, che diceva la sua, così dava una certa espressione di me anche questi uomini adulti, molti dei quali poi si sono rivelati molesti, quindi è molto inquietante, gente di 50 anni che ti dice con la scusa di regalarti la sua collezione di Dylan Dog mentre a cena a casa dei tuoi, vieni in garage che ti regalo la collezione di me Dylan Dog, e tu ti trovi con sto tizio di 50 anni che ti schiaccia verso il muro, e per fortuna in quel momento tuo padre passa col cane e dici per favore qualcuno mi tiri fuori da qui, grazie. Lo racconto ridendo perché è andata bene a sto giro, quindi ok. Poi quei Dylan Dog li ho rivenduti, vorrei dirvi questa cosa, quindi, e penso di essermici comprata dell'erba. Allora, ottima scelta, direi. Sì, ottima scelta. A un certo punto. Però nel senso, io l'ho vista tante volte questa cosa su di me, ho visto l'attenzione che avevano nei miei confronti, l'ho vista nei confronti delle mie amiche, l'ho vissuta in tutte le molestie. Considerate che statisticamente una persona socializzata donna femminilizzata subisce la prima molestia intorno agli 11-12 anni. Quindi quando sei lì che non hai nemmeno vagamente l'idea di quello che sta succedendo, ma si percepisce un disagio. Io me la ricordo la mia prima molestia, i primi 5 minuti ero tipo nel mondo dei puffi, i 5 minuti dopo ero nel panico e secondo me sta diventando una seduta di terapia, però ok. Mi ricordo che anche in quel caso è stato totalmente casuale il fatto che io fossi liberata da quella situazione, perché ero stata fermata da sto tizio che era in motorino, che inizia a chiedermi una serie di cose totalmente assurde, e sono passate diverse persone adulte accanto a me, lo guardavano me, io palesemente sbatti perché non ero tranquilla manco per il cazzo, perché manco lo conoscevo. Questi se ne andavano finché una mia compagna di medie dall'altra parte della strada si è accorta che qualcosa non andava, una ragazzina di 12 anni che non aveva mai vissuto una cosa del genere se ne è accorta prima degli adulti, e che se ne sbattono il cazzo perché a loro volta questa cosa l'hanno vissuta e vogliono raccontare che è normale, come quando magari ci si incazza per il catcalling e dicono ah, ma i miei nonni si sono conosciuti con lui che li ha fischiato in strada. Ma bella merda, cioè, ma meno male che tua nonna è sopravvissuta a sto stronzo, spero anche che sia morto presto, voglio dire. Per carità, avesse avuto accesso ad altri strumenti magari non sarebbe stato quella persona, questo non glielo toglie nessuno. Però comincia talmente presto che è troppo normale. Come quando io vedo ad esempio quando siamo a tavola anche con i figli dei nostri amici, ma anche mio nipote, che gli danno la carne e magari lui vede che io non la mangio e chiede perché tu non la mangi. Poi io e mio fratello abbiamo un rapporto bellissimo, quindi intanto una bella storia ce l'ho anch'io, è tornata la gatta. E mio fratello sa che ovviamente ne abbiamo parlato, io gli posso dire le cose tranquillamente senza andare sul gore come faccio con le persone adulte, però lui sa benissimo che non mangia animali, questa cosa lo mette a disagio. E mette più a disagio gli adulti che insistono per fargli mangiare sta carne, che tra l'altro vorrei ricordare pure l'OMS, nel senso, ha riconosciuto che la carne processata è tipo un cancerogeno, adesso non mi ricordo la tipologia, quindi non fa bene. E poi anche sta cosa, ma anche se facesse bene, ma che cazzo ce ne frega? Cioè il sanismo non l'avevamo tipo lasciato un po' a sta cultura de merda del dobbiamo avere questa performance fisica della perfezione da Hercules? Cioè chi se ne frega, no? Vabbè, comunque comincia talmente presto che non ci facciamo caso, e arriva nello stesso momento in cui arriva anche la socializzazione al capitale, perché occhio che te la rubano, è una tua cosa, io sono un oggetto di mio padre, un'estensione materiale di mio padre finché lui non mi venderà il miglior offerente, parte del suo patrimonio, esatto, Pensate quanto è felice mio padre di sapere che ho un'identità di genere non conforme e non voglio figli. Però al di là di questo. Però nel senso che il fatto che il mio è un corpo femminilizzato che può essere considerato improduttivo socialmente è inaccettabile, è un'aberrazione. Costantemente c'è gente che mi vuole ricondurre a norma. Vedrai, quando sarai più grande cambierai idea, che se anche fosse saranno fatti miei, ma va bene così. E va avanti così fino al giorno in cui non diventi una persona anziana che si trova di nuovo a doversi occupare magari del marito anziano oppure dei nipoti, a dover giustificare la tua presenza perché del nonno ci si prende tutti cura, la nonna si deve curare di tutti, perché se no non ha una funzione sociale, non ha una funzione economica, non ha una funzione di sgravo lavorativo non retribuito, quindi di sfruttamento. Comincia presto e non finisce mai. Per interromperlo servono ovviamente delle genitorialità dissidenti, ma servono anche delle rotture che... Prima io non scherzavo quando vi ho detto non mi invitano mai alle feste, battesimi, compleanni, cose così. Mi ci invitano le persone compagne, grazie al cielo, però nel senso è perché a un certo punto diventiamo disturbo, facciamo talmente tanto rumore che non siamo più ignorabili e diamo talmente tanto fastidio che ci vogliono rimuovere. A un certo punto si troveranno soli con un sacco di buchi a tavola e ci sarà un grandissimo falò perché bruceremo davvero tutto. Shout out alla maglietta. Esatto. Rispondo alla domanda. Per approfondire un po', no? Volevo chiederti una cosa che secondo me è fondamentale. Cioè, tu prima storicamente dicevi che il patriarcato viene prima del capitalismo, mi sembra di aver capito questo. Io credo che sia la conseguenza il patriarcato di un altro concetto completamente forte, che è proprio la famiglia. Per cui vorrei chiedere quanto è necessaria una famiglia, perché è importante la famiglia, è necessario fare una famiglia? E poi tutto quello che viene dentro un contesto familiare non è conseguenza di un qualcosa in cascata? Perché comunque secondo me sono tutti fattori che non fanno altro che fomentare la forma del patriarcato. Io penso che il primo danno del patriarcato non è stato, cioè, la nascita di per sé del patriarcato, ma la nascita di un concetto di Stato, di tribù, di comunità, di ricchezza, di sfruttamento. Per cui io penso che il patriarcato noi lo vediamo come una conseguenza, più che la, non dovremmo vederlo come è la causa, è come una conseguenza di un problema che è ancora più grosso. Per cui sarei curioso di sapere dalla tua esperienza, visto che sei stata molto brava a spiegare e a fare questo tipo di lavoro molto interessante, proprio su questo concetto della famiglia e di società, quanto importante e necessario sia credere o no alla famiglia, al concetto del padre, della madre, i fratelli, le sorelle, via dicendo. Guarda, grazie per la domanda, è molto interessante. Allora, se devo dire cosa penso della famiglia, io penso che forse possiamo anche dirci serenamente che è il momento di distruggere l'idea della famiglia binaria, della famiglia nucleare, della famiglia come istituzione massima di inizio e fine di tutto quello che ci riguarda, perché perché alla fine è effettivamente quello che dicevi tu, è il primo spazio di socializzazione, cioè in sociologia è proprio definita la socializzazione primaria quella che viene fatta nelle famiglie ed è quella che ci informa, che ci inserisce in un sistema che però è già rodato e che si riproduce nella famiglia, tipo le gerarchie. I padri stanno seduti a tavola, qualcun altro spignatta, qualcun altro gli fa da magnà e poi si incazzano pure. Il principio è esattamente quello, cioè si impara sempre ad avere questa figura verso cui bisogna avere rispetto, onora il padre e la madre, perché viene sempre dopo, che è quella che si fa gli sbatti maggiori, anche perché io non l'ho vissuta, ma una gravidanza di 9 mesi non è una passeggiatina in un campo di fiori, cioè minimo minimo bisognerebbe quantomeno, comunque in un mondo distorto, avere le parti invertite. Invece no, perché? Perché quella è una funzione che lei deve comunque al padre, perché è lei che gli permette di diventare padre, e visto che il padre tendenzialmente non avrebbe controllo su questa cosa, usa lo strumento della proprietà per gestire sia la compagna, sto parlando ovviamente in termini binari perché parliamo di famiglia tradizionale, sia la prole, che diventa una sorta di suo sottoprodotto. Quindi proprio bisogna distruggere questa figura del padre patriarcale. Cioè, per me deve morire, mio padre sarà felicissimo. Comunque, al di là di questo, cioè, deve effettivamente essere distrutta, perché solo così noi ci possiamo liberare da questa formazione microscopica che però è il riflesso di tutto quello che c'è fuori, perché noi abitiamo un mondo che è organizzato così, con un vertice centralista che determina tutte le nostre esistenze in tutti i nostri spazi, in quelli relazionali, che siano quelli di lezione piuttosto che quelli di sangue, piuttosto che quelli lavorativi, che quelli anche contestuali, occasionali, che ne so, andare a fare un acquisto in un negozio non è un atto neutro, perché anche lì i nostri corpi sono informati da quello che c'è intorno a noi, anche dal nostro potere d'acquisto. Poter vivere in una città come Milano significa dover avere un certo potere di acquisto, oppure stare nei centri sociali, per fortuna, perché sennò non sa che cazzo fare delle nostre vite, perché costa tutto veramente troppo. Secondo me, attraverso una prospettiva transfemminista che punta proprio alla distruzione del patriarcato, perché il patriarcato è questa cultura qui, cioè è questa merda qua, noi possiamo arrivare a costruirci un'idea totalmente diversa che a quel punto ci permetterà di avere, se vogliamo chiamarle famiglie, comunità, ma proprio relazioni che sono impostate su meccanismi totalmente diversi e sono basati interamente sul consenso. Io ho la fortuna, così magari vi lascio anche su una nota positiva ogni tanto, di vivere delle esperienze così, perché ho incontrato in uno spazio che ha fatto un percorso di decostruzione talmente profondo che ha distrutto i meccanismi patriarcali al suo interno, anche inconsci. Questo non vuol dire che non si ritirino mai, perché può capitare, perché comunque, cioè, dopo 30 anni di socializzazione è complicato, dopo 40 anni di socializzazione è difficile, però c'è la struttura, ci sono gli spazi e c'è la sorellanza per riconoscerli, metterli in discussione in modo che la parte non si impermalosisca e dica no, non ho fatto niente, si mette in discussione a sua volta e a quel punto si faccia un percorso di superamento di quello che succede. Vivendo uno spazio del genere, io ho scoperto cosa vuol dire l'idea di una casa, se vogliamo avere l'idea, che però a casa è anche un po' escludente come concetto, perché è così materiale, è così. Proprio l'idea di avere uno spazio dell'affetto che è liberato, dove io sono liberata e sono costantemente libera e liberata dalle mie compagne e dalle mie sorelle, che sono di diverse specie, tra l'altro, in quel contesto lì, dove il nostro consenso è assoluto, cioè non è neanche no e no, lì è proprio diverso, cioè non esiste che succeda nulla se la persona non è nella condizione di volere che accada quella cosa lì, che sia una mansione lavorativa, che sia una discussione, che sia anche il ragionamento su certi problemi, perché magari non è il momento opportuno, allora si crea lo spazio per trovare il momento opportuno. Io credo che possiamo arrivare a una società così diffusamente, con tutte le diversità del caso, perché poi ognuno di noi avrà ovviamente le sue preferenze culturali, le sue preferenze affettive, le sue volontà. E tra l'altro l'ultima cosa che vorrei dire è che la cosa più bella secondo me è che è proprio antifamiliare, se vogliamo, è che in uno spazio come quello dell'ipoasi, che è quello di cui vi sto parlando, ipoasi è un rifugio antispecista di Pisa, cioè pensate, sono dovuta andare a Pisa per trovarmi questa sorellanza, in realtà mi hanno trovato loro, cioè sempre tutti a dire Milano, ci sono un sacco di cose, guarda, sono dovuta andare a Pisa, in periferia di Pisa, perché vabbè, ovviamente le periferie sono gli spazi più interessanti, se volete il mio parere, che sono anche quelli più rivoluzionari, anche per forza maggiore, perché dobbiamo sopravvivere. Questo è comunque un conflitto di interessi, eh. Vabbè, la stavo a fa... no, era perché eravamo qui, dai. Ah, okay. Io non sono così bravo. Non ho così tanto genio del marketing in me, anzi, ho consigliato libri che non sono miei tutto il tempo, come è giusto che sia. È uno spazio dove non è obbligatorio avere una relazione affettiva le une con le altre, nel senso che siamo tutte sorelle in una lotta, in un momento, in uno spazio, condividiamo una fatica, condividiamo dei momenti, ma ci possiamo anche stare tranquillamente sul cazzo, e questo non vuol dire che qualcuno sarà mai lasciata sola. Secondo me quella è una cosa estremamente rivoluzionaria, perché si supera l'utilitarismo relazionale, del tu mi dai qualcosa e ti do qualcosa a te, oppure io ti voglio bene quindi tu me ne devi volere. Cioè anche questa cosa viene meno, le relazioni cambiano, si superano, si moltiplicano, ed è una cosa straordinaria. Quindi in realtà ero molto d'accordo sull'osservazione che facevi, grazie. Io sono completamente d'accordo con te, nonostante nessuno di voi mi abbia supportato nel mio applauso, vorrei dire, ecco, no, sono totalmente d'accordo con te, però quando tu dici io credo che possiamo fare questa cosa, io non ho questa, io non ci credo, ma non nel senso che non, cioè io ci vorrei credere e ci penso spesso, ma non lo vedo, cioè non lo vedo non solo negli atteggiamenti di mio padre, di mia madre, che sono della loro generazione, non lo vedo nei miei, perché comunque anch'io mi sto decostruendo come tutti, perché non penso che ci sia una fine, ma non lo vedo nella gente, ma non dico Trump, ma tra me e Trump, cioè c'è una serie di gente che io dico ma non lo penso non solo nella mia vita, cioè io non ci credo che questo succederà, purtroppo. Quindi il fatto che tu dica io ci credo, da un lato mi fa dire, beh, ok, dall'altro ci stiamo illudendo? Cioè, perché per andare avanti, perché io a volte arrivo a certi punti e dico, ma chi me lo fa, cioè, chi me lo fa fare? Cioè, che voglia hai di vivere una vita in cui sei costantemente lì a dover spiegare le cose? Perché poi uno dice, vabbè, non le vuoi spiegare, non farlo. Però a volte invece, se non le spieghi, no, cioè la lotta va anche quello. Parlavo prima con Silvia e lei mi diceva, ma come si fa a iniziare questa lotta? Io le ho detto, ma non la stiamo già facendo? Lei mi ha detto, ma secondo me no. Quindi, io credo che magari quella volta che rompo le palle di più, perché c'è il contesto per farlo e io riesco, ho la salute mentale per farlo, sto dando un pochino, ma a cosa serve? Cioè, a cosa serve? Poi io sono nessuno, tu magari che, però anche quelle persone che magari scrivono i libri, che hanno un pochino più di potere, non mi piace usare la parola potere in questo contesto, ecco, quindi... Non so, cioè la mia domanda era più, non lo so, mi piacerebbe, a volte non ci credo ed è veramente, cioè ti dici ma cosa stai qua a fare? Cioè vivo la mia vita per poi morire perché manco io mi sposerò, avrò figli, quindi lotto, ma lotto per poi dire, vabbè scusate, se no parlo due. No, non scusarti, comunque secondo me era molto interessante, in realtà penso che sia anche giusto riconoscersi lo spazio dello sconforto nella lotta perché sennò diventa... Ce la faremo a tutti, questi siamo la toxic positivity del Covid, che anche basta, cioè lasciamola lì. Penso che stare nella lotta sia una delle cose più difficili perché il mondo ci rema contro. Cioè 10 ne facciamo, 150 ce ne buttano addosso, è anche peggio, quindi è molto sconfortante. Lo dico da persona che soffre di depressione da quando era piccola, quindi nel senso, per alcune di noi secondo me è anche molto complicato poi trovare il lato positivo, ste robe qua, perché ci dobbiamo anche rapportare con un mondo interiore che comunque è già in costante sofferenza, dobbiamo anche difenderlo. Ripeto che ho avuto la fortuna di trovare delle sorelle, delle compagne con cui mi posso trovare al 100%, che non vuol dire che andiamo d'accordo, però non è un posto dove mi devo fare il problema, qualcuno mi mangi la carne davanti, o dove devo preoccuparmi che qualcuno usi uno slur, che qualcuno magari mi infantilizzi perché mi percepisce in un certo modo sulla base del mio genere. Quindi è uno spazio di sicurezza dove io entro e sono tranquilla. Quella tranquillità poi diventa divertimento, diventa anche gioia, perché poi ci facciamo i cazzi nostri, abbiamo dei momenti bellissimi, e questa cosa qua secondo me è fondamentale per portare avanti la lotta. La lotta è programmatica perché la lotta è quello che ci porta alla rivoluzione. In questo momento noi non stiamo facendo la rivoluzione, stiamo facendo altre cose che ci possono portare alla rivoluzione, perché anche la rivoluzione non comincia dall'oggi all'indomani. Sarebbe bellissimo se domani scendessimo tutto in piazza e facessimo un sacco di cose molto carine e illegali e carine e sovvertissimo l'ordine costituito e ci garantissimo anche la possibilità di esperire in questo stesso arco vitale che cosa vuol dire una vita liberata, perché poi quando noi entriamo, parlo al plurale perché poi anche la persona in cui divido la vita, quando noi entriamo all'interno dello spazio dell'ipoesi, noi ci sentiamo finalmente libere, liberate, fuori sappiamo cosa c'è. Questo vale per noi e per tutte le nostre sorelle. Ed è annichilente, è terribile, cioè non voglio usare un paragone biblico perché Davide e Golia ha rotto il cazzo pure loro. Però è quello, ti senti una formica di fronte a un mare di merda. Cioè, la cosa che a me fa dire ok, comunque possiamo cambiare qualcosa, innanzitutto è continuare con una rottura di sistema, perché nel momento in cui io rompo con questo sistema io non sono complice, anche se mi ci vogliono rendere a tutti i costi, anche se ci sono delle cose di me che non posso cambiare, perché ad esempio vivere in un sistema biancocentrico razzista farà sì che, per quanto a me faccia schifo, io comunque viva dei privilegi, che mi piacciono o meno. È mia responsabilità stare nella lotta antirazzista perché questi privilegi muoiano, possibilmente domani, sarebbe gradevole e piacevole. Tra l'altro tra poco c'è il referendum sulla cittadinanza, quindi vi consiglio di esercitare questa cosa del diritto di voto e di usarlo, anche perché lo fanno passare come una cosa, ovviamente la controparte che negativizza il referendum contro la cittadinanza lo fa passare come una cosa atroce, cioè si tratta di ridurre da 13 a 8 anni il tempo che intercorre per ottenere la cittadinanza, quindi non stiamo nemmeno parlando del cambiamento di cui ci sarebbe bisogno, però comunque è fondamentale ed è una responsabilità di chi ha la cittadinanza, e lo dico essendo una persona con un posizionamento anarco-transfemminista, tra l'altro è una responsabilità antirazzista, questa è una cosa fondamentale. Dopo questa piccolissima digressione, è molto difficile, è complicato, alcune di noi non se lo possono permettere di non lottare, perché se io non lottassi devo smettere di fare battute tragiche, quindi non le farò. Però dove sarei, cosa sarebbe la mia vita? Chi sarei oggi? E il fatto che delle sorelle prima di me abbiano portato avanti questa lotta ha fatto sì che io avessi qualcosa a cui aggrapparmi, in cui stare dentro, in cui trovarmi, perché poi ho scoperto chi sono anche a questo, che è una cosa straordinaria. Lasciando stare che io sono nata nel 92, quando ero al liceo non esistevano le parole per il mio orientamento sessuale, per la mia identità di genere. C'erano solamente persone eterosessuali e gay, tu se li dici, ma proprio devo scegliere, ma perché? Ma lasciatemi nel mio... Però vabbè, questa cosa per me a livello individuale ha fatto tantissimo, a livello collettivo penso che per fare una rivoluzione debba essere distrutto l'apparato culturale. Quindi qualsiasi forma di dissidenza, per quanto ci sembra piccola, e non parlo solamente di libri, perché i libri sono anche la forma un po' più concretizzata, istituzionalizzata, se vogliamo, delle rivoluzioni culturali. Cioè un libro solo non fa niente, è quello che si porta appresso, è quello che la gente ci trova dentro, è quello che ci legge o che ci ascolta dentro a fare la differenza. Se noi cambiamo il paradigma culturale abbastanza anche da bucare la serenità della gente che oggettivamente ci tratta di merda ogni giorno, costruiamo dei legami e dei ponti. Una cosa che vorrei anche dirti, che non sei sola, non sei l'unica persona che ha portato questo malessere, se possiamo definirlo così, cioè non è la prima volta che mi capita di rispondere a questa cosa. Sono stata in diversi posti l'anno scorso e quest'anno in tutta Italia, in tantissimi collettivi transfemministi che non conoscevo. Siamo tantissime, cioè non sembra, sto usando il femminile sovraesteso tra l'altro, siamo tantissimo. Siamo una moltitudine che non si conosce. Quello che ci sta mancando adesso sono i ponti, però ce li stiamo costruendo. C'è anche vedere l'aggregazione che c'è alle manifestazioni pro palle, è una cosa potente. È una cosa che ci fa vedere forse anche dopo tanto tempo chi siamo, che ci guardiamo in faccia e non siamo i soliti quattro stronzi, anche se ultimamente le manifestazioni erano un po' vuotine, quindi riempiamo le piazze e a un certo punto saremo troppe. Io non so se lo vedrò nel mio arco vitale, mi piacerebbe tantissimo vedere sti grattacieli di merda prendere fuoco, lo finirò al gabbio per delle cose che dico, ma va bene così. Mi piacerebbe che succedesse domani, vorrei poterti dire che sarà così. Quello che ti posso dire è che finché una di noi resterà dal lato transfemminista, prima o poi succederà. Anche perché una certa si ammazzano da soli, cioè c'è poco da fare, voglio dire, rincoglionito per parlare dell'esempio massimo, ma insomma, se stanno a fare la guerra... si autoestingueranno, cazzo ne sa, magari. Io, cioè, condivido la stragrande maggioranza delle cose che ha detto Martina, semplicemente perché alcune cose non le capisco perché non le so, quindi mi fermo lì. A un certo punto il livello cerebrale è limitato. No, una cosa che io proverei a invitare a pensare sono due, che sono: una è una rapida, anche se un po' tragica, difficile da digerire, incursione nella questione di tutto quello che è successo in Palestina dal 7 ottobre in avanti, e anche che è anche un passettino di decolonizzare il nostro pensiero. Noi qui facciamo fatica a mobilitarci, facciamo fatica a fare dei sacrifici per la lotta, facciamo, ieri parlando con uno, non mi ricordo più chi, dicevo, cioè, che è vero, in Polonia ti sparano se vai cortei di una di meno in Polonia, che ti ammazzano in Polonia, che ci arrivi in macchina, ok? Quindi cioè, nel senso, avere la fortuna e il privilegio di essere in un centro sociale e fare il festival di una casa editrice già è una lotta molto più tranquilla, e per cui appunto in Palestina, che noi categorizziamo come terzo mondo o un'altra cultura, sicuramente che è fuori dall'Europa perché è un paese tendenzialmente musulmano con un'altra tradizione culturale eccetera, il 7 di ottobre lo sapevano tutti che sarebbero morti maschi, purtroppo, perché hanno fatto questa cosa, hanno fatto solo soldati maschi inseriti dentro a maschi, comunque una struttura religiosa eccetera, però hanno fatto lo stesso, l'hanno fatto perché loro ci credono che il mondo si cambia. Ci credo che il mondo si cambia, e tendenzialmente da che mondo è mondo, da quando è iniziata la storia dell'umanità, i conflitti di potere significano la morte di una delle due parti. Siamo noi occidentali che dopo la fine della guerra fredda, la fine della storia, il realismo capitalista, pensiamo che questo tipo di mondo sia infinito, imperituro e per sempre avrà questa forma. Cioè, mi spiace citare soltanto maschi bianchi, però cioè, Barbero lo dice molto chiaramente, tutta la storia cambia sempre. E nell'800, 1848... si dicevano sì è successo un gran casino, ma non cambierà nulla, i re rimarranno per mille anni, ci sarà per sempre l'impero asburgico, ci sarà per sempre la casata dei Romanov a regnare in Russia. Passano 120 anni e le cose cambiano. Il problema sul serio, che io questa cosa la riscontro perché del mio anno, del 90, ho conosciuto Chiara, che faceva Michela anche del 90 forse, 88, ma è del 90 comunque. Comunque, cioè, del mio anno, cioè, dei miei compagni di classe, nessuno fa militanza. Sarebbe veramente, anche nelle altre scienze sociali ne trovi due del 90. Perché evidentemente, a parte il fatto che questa cosa statistica assurda, folle, ci ridiamo sopra, siamo statisticamente la generazione più numerosa della storia dell'umanità, perché siamo quelli venuti dopo i baby boomer. E quindi quando i baby boomer sono arrivati tutti quanti nell'età di fare figli, hanno fatto figli, figlie, e quindi la generazione più numerosa, la classe più numerosa nella storia dell'umanità è quella del 90, incredibile ma vero, ma nessuno fa politica, quantomeno qui in Occidente, perché completamente inseriti dentro questa cosa per cui basta, la storia è finita, non c'è più, non è c'è una cazzata. E la Palestina, il terzo mondo, la Cina, l'Africa, cioè in Africa ci sono 158 milioni di persone, età media 18 anni. Cioè vuol dire che tra 20 anni è la Nigeria che ha capottato il mondo, e lo farà secondo la cultura, i modi, le maniere, le idee che ci sono in Nigeria adesso, che nessuno di noi conosce, perché noi crediamo che sia l'Occidente che guida il mondo. Ma non è così, non è così, e si vede che non è così, si sta iniziando a vedere che non è così. Quindi l'esercizio è fare qualcosa di mettersi da parte e dire adesso la rivoluzione arriverà da un'altra parte del mondo. Punto. Poi vabbè, non volevo fare un complimento barra una cosa sbagliata, cioè, però quello che tu hai portato è proprio l'essenza del realismo capitalista e forse il realismo patriarcale, cioè è così, non riusciamo a muoverci perché così rimarrà così, non è vero, non è così, non rimarrà così, ed è vero pure dall'altra parte che, come diceva prima Martina, cioè l'unica soluzione è mettersi di traverso, in questo momento la rivoluzione non c'è, ok, ci si infila ovunque come dalle radici delle piante per cercare in ogni angolino di scavarsi qualcosa, cioè noi, parlo di noi nel senso del collettivo che fa parte, che occupa questo posto, lo facciamo tanto questa cosa di proprio con la feroce di dovunque puoi ti infili, ti metti, ci provi, scavi qualcosa, poi non funziona ci riprovi, lo fai un'altra volta eccetera, perché sennò cosa fai altrimenti? È chiaro che sarebbe molto più bello prendere la mazzetta, andare avanti alla prima banca, sfondare la banca e dire andiamo a prenderci i soldi, chi ci viene? Cioè non è vero, questa cosa è un sogno, non funziona così, e abbiamo visto pure di recente in alcuni cortei proprio nel mese di marzo che non è che se sfondi le vetrine il giorno dopo c'è più gente in piazza che ha voglia di venire a sfondare, non funziona così, però in qualche modo bisogna provarci, e purtroppo ci si prova. Ecco, perdonatemi se guardi questa nota un po' cattiva, quantomeno non ci sparano addosso, quindi allora forse dai, cioè non è così orribile, orrendo, è una fatica incredibile, uno sbattimento assurdo, però appunto potrebbe essere molto molto peggio, ma in fretta probabilmente diventerà, perché ormai di alle sicurezza è a posto, quindi stare qui dentro, se esci fanno la foto, sono fino a 6 anni di carcere, alle spese pagate dallo Stato, finalmente, tutti in spesa, tutte in vacanza. Posso accodarmi una cosa che hai detto? Vai. Allora, perché in realtà a me piace molto questa cosa di decentrarci, e quindi ora ti dà un po' fastidio. Io rischio la vita più di te, lo sai, no scherzo, no, al di là di questo è che alcuni di noi non possono nemmeno permettersela alla piazza, perché è vero che non ci sparano, però minchia se ti fermano che non c'è documenti, raga, so cazzi, c'è la deportazione, se i documenti non sono corrispondenti alla tua presenza di genere, alla tua performance di genere, non vuoi essere lì con quello sbirro, non è un bel momento. Questi sono tutti dei dispositivi che sono già più violenti, non sono i più violenti che ci sono, perché quello che dicevi tu secondo me era molto interessante. Noi siamo i millennial e noi siamo quelli che avevano Pasqualone, la calza della Befana, i coccolotti, io non ce l'avevo, le ballerine volanti, quelle ce le avevo, tutte queste cose qua. Noi ci hanno riempito di plastica. Emilio, oddio, scusate, no vabbè, Emilio, allora secondo me bisognerebbe trovare Emilio, Emilio, Emilio, allora tu non l'hai mai sentito? Allora, non farei Gen Z shaming, okay, adesso, però, adesso no shaming per la Gen Z, scusate, però scusate. Come? Anche gentile. Ecco, allora. Miriam non lo sa. La Nouvelle Cousine. Io ce l'avevo la Nouvelle Cousine, tra l'altro. Cioè. Ma figurati. Ah, va. Anch'io. Io pensavo facesse un sacco di cose. Poi l'ho vista a casa mia, che è una cosa inutile. No? Era un cameriere. Però, secondo me. Allora, secondo me lo troviamo. Non so, ma raga. Cioè, che schifo. Però potremmo liberare un Emilio da un negozio di quelli che lo vendono a dei prezzi esagerati e metterlo qui da Zamma. Libero, che finalmente non deve servire. Fa il cazzo che vuole. Dai, esatto. Sarebbe cute. Mettergli dentro un cervello un po' più evoluto, che magari ti risponde. Ma anche lasciamolo lì, che ci sta. Cioè, il punto è quello che noi ci hanno riempito di cose. Ci hanno abituato a volere solo cose. Cioè, noi vogliamo le cose pronte, le cose fatte, le cose veloci, cioè sai quante volte la gente con me si lamenta di lì, io non posso diventare vegano perché ci metto troppo a cucinare. Avrà, per bollirti una patata, per aprirti una scatola di ceci, quanto cazzo di tempo ti serve? Oppure perché in pausa pranzo devo mangiare fuori con i colleghi, ogni volta non c'è quel, gli rompi i coglioni, cioè poter scegliere cosa mangiare non è un privilegio di più, se poi puoi scegliere anche chi mangiarti, cioè sei proprio dall'altra parte. Noi siamo assuefatti ai nostri privilegi perché viviamo in un sistema a premi, cioè la papà capitale ci ha educato bene, ci punisce severamente se esuliamo, ma se ci comportiamo bene c'è la promessa di avere tutto. Poi non abbiamo un cazzo, cioè creperemo senza pensione, siamo sfruttati, tutto quello che abbiamo detto prima. Ci depotenzia, ci fa credere che non abbiamo potere politico, perché non vogliamo un cazzo, perché le nostre lotte non valgono niente, perché non siamo nulla, perché siamo singoli, soli, individualisti, pensiamo sempre al nostro cazzo di interesse personale, bla bla bla bla bla. E alla fine ci ritroviamo soli, torniamo al discorso della bara, oggi la parola chiave è bara, che centriamo come ci arriviamo, isolato. Invece nella lotta noi riscopriamo un modo di stare congregato diverso, che costruisce. Poi, parlando di sorellanza, per decentrarci ancora di più, mi è piaciuto un sacco quello che hai detto, cioè anche la sorellanza non è una roba che noi ci siamo inventati qua in Occidente, eh. C'è anche questo modo di fare comunità, di stare in altri contesti, di resistere al potere capitalista, sono cose che noi abbiamo imparato spesso e volentieri da quelle stesse realtà che poi vengono, che sono state colonizzate, che vengono tuttora colonizzate. Cioè comunque la Palestina, prima che il protettorato inglese arrivasse, era un altro mondo, era totalmente diverso, l'autorità era gestita diversamente. Qui non si tratta né di romanticizzare né di fare meglio o peggio, ma si tratta di riconoscere che il capitalismo ha distrutto modi alternativi di vivere che però sono riusciti a resistere. Perché poi parliamo sempre di resistenza. La resistenza non è una scelta, la resistenza è quello che serve per sopravvivere. Cioè si resiste quando si sta cercando di sopravvivere, di vivere meglio, di creare una lotta che ci porti a vivere meglio tutto. Quando non si può più scegliere tra vivere o morire, quando l'alternativa è o muoio o io sono l'ennesimo corpo su cui verrà spianato il capitalismo di insediamento, non è più una scelta, è chiamata. Noi siamo annegati nel nostro privilegio. Ci annegheremo, nel senso che se si farà una rivoluzione, quando si farà una rivoluzione che arriverà da fuori, che arriverà con altre lingue, con altri modi, con altri metodi, che magari non sono nemmeno quelli che noi adesso possiamo immaginare, sarà proprio questo privilegio a venire annegato. Quindi banalmente, probabilmente anche noi, i nostri modi di fare, che troveremo anche anacronistici, forse desueti, il nostro modo di fare comunità rispetto a quello che potremmo fare. Ultimo fun fact che volevo dire è che recentemente stavo leggendo un libro che non mi ricordo come si chiama. Ho scoperto una cosa molto divertente che mi fa molto ridere, no? Sul fatto che noi raccontiamo sempre la storia dal punto di vista dell'Europa, bla bla bla. Tipo, nel Medioevo, per il resto del mondo, l'Europa era una cosa arretrata che faceva anche un po' cagare. E poi invece, crociate, andiamo a colonizzare, primo tentativo di colonialismo, andiamo a fare, andiamo a dire, raccontiamoci che siamo il centro del mondo. Non è così, perché i centri non esistevano, ce li siamo inventati, quindi... Ok. Beh, allora, bravo. Ringraziamo tutti e tutte per essere qua. Grazie a Martina, trovate i libri in vendita al fantastico banchetto di Meltemi. Rimaniamo con le mani qua tutto il festival, parleremo all'infinito. Adesso facciamo un po' di così, parliamo ora in radio io e te all'infinito, cazzeggiamo.